sera mi chiamavi, chiamavi. Attendevo lo squillo sopra il mio cicciolaro. Poi un tratto ha squillato, non ci credevo. Non ci credevo. Mi avevi chiamato e da allora mi sono vestito. E poi dopo mi sono lavato i quasietti, ma io cangiato. E in fretta fuori a maio pettinato i capelli. Ed ora io ero pronto per te, per il nostro primo appuntamento. Ci ho messo tutto quanto è il mio sentimento. Thank you.